solo 3 minuti per parlarti di me. Cosa siamo capaci di fare in soli 3 minuti? 3 minuti sono 180 secondi. 3 minuti sono la durata di una ripresa di box. 3 minuti sono circa la metà del tempo che impiegherete ad ascoltare questo mio pezzo. Possono essere un tempo appena sufficiente, troppo breve o insopportabilmente lungo. Del resto, si sa, la vita è una questione di prospettive, ma è assodato che 3 minuti siano un tempo assolutamente stupefacente per quello che vi sto per raccontare. Buongiorno caro ascoltatore di Radio Bullets e ben ritrovati a Tecnomondo. Per coprir tutto quello che sei. Oggi parliamo del futuro della computazione, ovvero di informatica quantistica, e per scoprire le ultime novità occorre bussare a casa Google. I protagonisti di questa storia sono infatti gli scienziati del team guidato dal fisico John Martinis, che lavora appunto alla Google AI Quantum e al Dipartimento di Fisica dell'Università della California a Santa Barbara. Una ricerca peraltro condotta in partecipazione con altre importanti istituzioni statunitensi, tra cui la NASA, il Caltech e tedesche. I computer quantistici, a cui si sta lavorando da oltre un trentennio, permetteranno di eseguire calcoli ed elaborazioni ben al di sopra delle capacità di un comune computer. Ebbene, Martinis e compagni hanno sviluppato un nuovo processore chiamato Sycamore. Un giocattolino ad alta fedeltà a 54 qubit, ovvero i bit quantici, con il quale si sono cimentati in un particolare test. Il test, indicato come esperimento di supremazia quantistica, viene definito dagli stessi studiosi come una pietra miliare nell'informatica quantistica. Lo scopo, spiegano, è di comprendere come superare le sfide tecniche ingegneristiche per la realizzazione di computer tanto potenti, che permetteranno di risolvere problemi di fisica e chimica estremamente complessi in un brevissimo lasso di tempo. Proprio partendo da queste teorie, i calcolatori quantistici sono diventati sin dai primi anni 80 il grande obiettivo da raggiungere. L'esperimento californiano, dunque, ha dato modo di testare le prestazioni complessive del sistema e il computer quantistico Made in Google ha superato il test con successo. Il nuovo superprocessore, infatti, è stato in grado di eseguire il calcolo stabilito come target dell'esperimento in soli 200 secondi. Ebbene sì, poco più di 3 minuti. Ma il dato davvero sorprendente, dicono gli scienziati del team californiano, è che lo stesso risultato, se il calcolo fosse stato effettuato dal supercomputer più veloce del mondo, avrebbe richiesto ben 10.000 anni. Questo è quantomeno ciò che afferma il gruppo di Martinis, posizione però contestata da altri esperti del settore. Secondo IBM, infatti, ciò non sarebbe esatto. Sycamore ha dato certamente un risultato interessante, ma Supercomputer Summit, sviluppato proprio da IBM e operativo dal 2018, con i suoi 10 petabyte rotti di memoria che lo rendono ad oggi il computer tradizionale più potente in assoluto, dicevo, Summit sarebbe stato in grado di risolvere il medesimo calcolo in poco più di un paio di giorni. Una discrepanza non da poco, a dire il vero. Tra pochi giorni e ben 10.000 anni di bit sotto i ponti ne passano davvero tanti, ma ciò non toglie che la prestazione di Sycamore sia degna di nota. Gli esperti di IBM, inoltre, sono convinti che non si potrà mai parlare di supremazia quantistica, peraltro, a detta loro, non ancora raggiunta, perché i computer quantistici non soppianteranno mai i computer classici, bensì, affermano, lavoreranno di concerto perché ognuno ha propri punti di forza unici. Una cosa resta assodata, i computer quantistici dimostrano una capacità di svolgimento, calcolo e misurazione ben al di sopra dei computer tradizionali e prospettano la possibilità di operare a velocità elevatissime. Intanto gli inventori di Sycamore già stanno lavorando alle possibili applicazioni in campo di fisica e chimica quantistica, nel machine learning generativo e in diverse applicazioni informatiche. Sycamore, spiegano infatti gli scienziati del team statunitense, è completamente programmabile e può eseguire algoritmi quantistici per scopi generici. Gli obiettivi primari sono di sfruttare le potenzialità dei processori quantici di prossima generazione per la ricerca accademica, così come in campo industriale. C'è da scommettere dunque che avremo modo di vedere a breve ciò che si potrà davvero fare con i computer quantistici. Il futuro, quindi, è arrivato. Prima di concludere, ricordo che i risultati dell'esperimento californiano sono stati pubblicati a fine ottobre sulla rivista scientifica Nature, che tra l'altro il 4 novembre scorso ha festeggiato i suoi primi 150 anni. Siamo giunti così al termine anche di questa puntata di Tecnomondo. Ricordate che gli altri nostri contenuti, dalle rubriche agli approfondimenti fino alle news, si possono ascoltare, ma anche leggere, sul sito web radiobullets.com. Mentre per un nuovo appuntamento con Tecnomondo vi aspetto tra una settimana, quantisticamente sempre qui, su Radio Bullets. Un minuto, resta un minuto. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Yeah. sapienza, balla pienza e guarda para, sta macchina rodia, sta macchina rodia, mora, balla, balla e pienza. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E rieccoci qua, 9:30 minuti di questo mercoledì 13 novembre, ed siamo ai giornali. I giornali apriamo con Sole 24 Ore, che parla dell'ex Ilva. E il titolo d'apertura è: Arcelor, cioè la multinazionale franco-indiana, va in tribunale a Milano depositando i documenti per il recesso dall'accordo con lo Stato italiano. E segnala il Sole 24 Ore: scontro Conte, il Premier e i 5 Stelle su concedere ad ArcelorMittal una possibilità di scudo penale o meno. E poi in realtà non solo a loro, ma a tutte le aziende italiane. Arcelor deposita l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto. Trattativo d'oltranza tra i 5 Stelle sullo scudo penale. Se non ci sarà una garanzia legale, è difficile aprire il confronto con Mittal. Perché vediamo che è talmente in ginocchio, sconde sulle 24 ore, per riaprire il confronto prima di dargli le garanzie. Questo è, non che dandogli le garanzie poi quelle riaprono l'azienda, no, solo per sedersi a discutere. E boccia di Confindustria: i problemi non si risolvono con la nazionalizzazione, perché è chiaro che i privati vogliono la privatizzazione d'oltranza perché ci guadagnano e quindi non vogliono assolutamente nessun tipo di presenza dello Stato nelle imprese. È il concetto liberista più classico: lo Stato non ne serve per creare economia, ma è unicamente per fare da trampolino perché si alzi il profitto. L'editoriale di Fabio Tamburini, infatti, sulle 24 ore recita: gli italiani pagheranno gli errori a caro prezzo. Questo naturalmente quando parla di errori sulle 24 ore non parla mai della classe imprenditoriale padronale, mai, sempre la classe politica, perché loro sono sempre dalla parte del giusto e sempre nati sotto un cavolo nel giorno di ieri. Corriere della Sera: Conte, Di Maio, il duello sull'Ilva agita il governo, il leader 5 Stelle no allo scudo, ArcelorMittal se ne va, parla Zingaretti a presentarsi uniti contro la destra. E questo è il Corriere, che unisce i temi legati al all'economia, a quelli legati alla politica e alle elezioni prossime venture a livello regionale. La Gazzetta del Mezzogiorno, naturalmente assai interessata alla questione Ilva, parla dell'ex Ilva, l'incubo spegnimento, Mittal il deposito del recesso, scudo penale tra Conte e pugliesi dei 5 Stelle. E il titolo è Taranto, Italia, questo è la Gazzetta del Mezzogiorno. Evidentemente non è l'unica che parla di questa vicenda, e ancora abbiamo altri spunti che arriva per esempio dalla stampa. Ex Ilva, i ribelli 5 Stelle contro Conte, ecco i concetti dei ribelli, no? Di Maio minaccia il voto per sedare la rivolta del movimento sullo scudo penale per Mittal. E giustamente, ahimè, Ugo Magri parla di una coalizione senza bussola. Dico ahimè perché dietro questa coalizione ci sta l'ipotesi di una grande destra che cambierebbe anche sicuramente le regole del gioco, e cambiando la stessa carta costituzionale in versione di repubblica presidenziale. Devo dire che tutta la vicenda dello scudo penale è tutto una sorta di grande alibi, non dell'ArcelorMittal, ma della politica per litigare, perché la centrodestra utilizza questa cosa per dire che il governo deve cadere, non è adatto agli italiani, bla bla bla bla bla. Naturalmente l'ArcelorMittal non è un problema di questo governo, è un problema che anche di questo governo, ma di quelli che l'hanno preceduti. E in generale ricordiamo per esempio che il centrodestra, capitanato da Berlusconi, come pilotò, diciamo così, la vicenda all'Italia con i famosi patrioti, e vediamo come è messa l'Italia. Quindi diciamo che ognuno ha le sue cose, ma soprattutto perché ci sono alcuni temi che dimostrano che l'operazione è già scattata, non solo perché chiudono impianti fuori dall'Italia in mondo in Bulgaria e nel Sudafrica, ma anche perché il siderurgico è a un passo dalla chiusura. Mittal vuole spegnere l'alto forno, svuotati i parchi dei minerali. Carlo Di Foggia ce lo dice dal Fatto Quotidiano. Denuncia arriva dalla FIOM, il sindacato metalmeccanico CGL. Messaggio agli operai: il 20 novembre fermata, poi lo stop. Commissari pronti a misure d'urgenza. L'alto Lalde al forno 2 avrebbe conseguenze drammatiche: finito il materiale per colare acciaio, quindi danni enormi. E tra le altre cose, c'è sempre questo tema della sicurezza e della salute, che attualmente sembra ormai una cosa, un argomento tra le varie ed eventuali, invece evidentemente per la città di Taranto, non solo per quella, è di primaria importanza, e anche di sicurezza sul lavoro, perché leggiamo l'incidente ieri: incendio in acciaieria, caldaia forata, fiamme altissime per una colata improvvisa. Chiaro che volendo chiudere le manutenzioni si fanno attendere. Hanno lambito i tubi del gas, quindi c'è stato il rischio di una strage tremenda, fortunatamente scampata, ma uomo avvisato, ahimè, per nulla salvato. Condizioni critiche, dicono i sindacati ancora, servono manutenzione ordinaria e straordinaria, continua. Questo è quello che arriva dalla pagina del Fatto Quotidiano. D'altra parte la Stampa ci dice un'altra cosa che non compare tanto sui giornali, è la procura di Taranto. La verità della procura, lo scudo c'è già, quindi una gran discussione sul niente. Dunque, secondo la procura, abbiamo una cosa che dice che non compare tanto, perché leggo dall'intervento di Francesco Grignetti che l'incontro con il procuratore capo Carlo Maria Capristo e l'aggiunto Maurizio Carbone si è tenuto in prefettura Taranto l'8 novembre scorso. È emerso subito che la questione del famoso scudo penale è molto diversa da come viene raccontata, intanto perché esiste già, non solo per via dell'articolo 51 del codice penale, ovvero sia l'esercizio di un diritto, dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica, da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità, ma perché ne funziona uno apposito per Taranto previsto dal decreto Salva Ilva del 2015. Ilva, brutta fine, il titolo di apertura di oggi della Repubblica. Mentre Mittal se ne va, l'esecutivo litiga, l'acciaieria funziona ormai al 30%, materie prime fermate nei porti di Taranto e Brindisi. E nella cronaca Giuliano Foschini racconta che la paura a Taranto è arrivata con il silenzio, mentre a Roma rimbombavano le liti di governo, in fabbrica per la prima volta sparivano i rumori, niente suoni di camion che scaricano materiale, poco chiasso di acciaio in lavorazione. La fabbrica che si spegne, scrive appunto l'inviato della Repubblica, con peraltro anche questo incidente di cui già parlava Alfredo a condire il tutto. Mentre la trattativa si ferma, tutto si ferma, con lo schiaffo dei 5 Stelle a Conte, scordati lo scudo, tensione all'incontro tra i parlamentari pugliesi guidati dalla Lezzi e il premier che sbotta, Di Maio non controlla più i dissidenti. E interviene anche il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, del Partito Democratico, che parla di incentivi al porto di Taranto e sconsiglia a Mittal di fare guerra allo Stato. Non so se Mittal ascolterà il ministro in quella che ormai il Manifesto, guardando a Giovanni Verga, definisce scuderia rusticana. Oggi la nomina del giudice che dovrà decidere sul recesso di ArcelorMittal, all'ex Ilva quasi spenta vola via la bandiera del gruppo, domani maxi vertice, poi vedremo, perché questi vertici vengono annunciati e smentiti di giorno in giorno. Il governo va alla guerra dell'Ilva senza scudo e soprattutto direi senza piano B. Un'altra accordata non c'è. L'ipotesi cassa depositi prestiti è remota, quindi veramente una totale incertezza, mentre Mittal taglia ovunque, ci racconta infatti il Manifesto che la multinazionale in 2 giorni, devo dire con uno straordinario efficientismo, ha chiuso un sito in Sudafrica e un altro sito in Polonia, quindi ArcelorMittal ci mette veramente poco a togliere le bandierine. Il gruppo franco-indiano in soli 2 giorni appunto ha chiuso un'acciaieria in Sudafrica, sospeso la produzione in Polonia, segnali di una strategia di drastica riduzione della produzione decisa negli ultimi mesi. Entrambi i casi non sono paragonabili con Taranto, la più grande acciaieria d'Europa, ma rendono bene che il decisionismo della famiglia Mittal. La battaglia giudiziaria che si appresta ad andare in scena al Tribunale di Milano, che è la sede legale, ricordo, di ArcelorMittal in Italia, e il corollario italiano, il pandan italiano. Ieri in tribunale è stato ricevuto l'atto di citazione con cui l'azienda ha chiesto il recesso del contratto di affitto dell'ex Ilva. Oggi assegnerà il procedimento al giudice competente, anche perché con procedura d'urgenza, perché ArcelorMittal ha chiesto all'amministrazione straordinaria di Ilva di tornare in possesso degli stabilimenti il 5 dicembre. Nel frattempo anche i sindacati rispondono in modo formale e rispondono alla lettera mandata dall'azienda chiedendo un incontro al ministero. Quindi sembrerebbe proprio che si cali la tela sulla presenza dell'Ilva Acilor a Taranto, e questo per insegnare cosa significa privatizzare in favore delle multinazionali locuste che vanno in un locale, in un luogo, prendono tutto poi se ne vanno, e quindi davvero un addio. Ho pianto per te, pregandoti di stare con me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò stai lontana da me. Non ti voglio perché, non ti voglio così. Le strade sono piene di donne, uguali a te. Vivevo per te, scordandomi chi pianse per me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò sei ormai chiusa per me. Questa storia perché io ritorno da qui. Già sapevo che sarebbe finita, certo così è. Non ti voglio mai più, non ti credo, e perciò stai lontana da me. Non cercarmi perché io ritorno da qui. Già sapevo che sarebbe finita, certo così. Sì, con Adriano Celentano, dunque, tutta questa polemica sullo scudo penale, non lo scudo penale, risulta essere tutta una sorta di grande foglia di fico, ci scusi il Presidente della Camera, per litigati all'interno della maggioranza, ma anche naturalmente la propaganda ovvia dell'opposizione contro il governo giallo-rosa. Nel frattempo il ministro Gualtieri, quello dell'economia, si presenta e dice asili nido gratis da gennaio. Il ministro per la grande maggioranza delle famiglie grazie al bonus. Hanno cambiato i parametri, quindi è chiaro che le famiglie con meno reddito, almeno alle proposte del ministro, avranno il asilo gratis ed altre famiglie con più reddito dovranno pagare. Salvini infatti dice una presa in giro, titolo subito ricolto dal giornale, perché non devo concedere nulla ai giallo-rosa, ma questo fa parte appunto della classica battaglia preelettorale, se non che evidentemente è talmente screditata la politica che qualsiasi discorso viene preso come vero, anche se uno ne dice che il governo vuole abolire Natale, tutti ormai ci crediamo. Gualtieri contrattacco, le misure dell'esecutivo secondo la stampa, manovra di tasse semmai scendono, maggioranza diviso, presto un vertice sulle modifiche, si conta, detto che fatta la manovra, riunirà i leader dei partiti di maggioranza per avere un chiarimento. Non si sa nemmeno se Renzi sarà presente in questa assise. Dice comunque il ministro del tesoro, il bonus per gli asili raddoppia, il paese ha un dividendo di credibilità da 38 miliardi di euro, ma la credibilità forse l'avrà nei dividendi, ma un po' meno, interno alla propria popolazione. Ma quello che scredita ogni cosa che dice il governo è che subito si alza uno nella sua stessa maggioranza che lo attacca dall'interno, è il fuoco amico che fa più da guai che i guasti che non il fuoco nemico di Salvini e della Meloni. Perché oggi si rialza Renzi? E all'ennesima intervista sulla stampa, perché naturalmente la politica moderna è quella fluida, non la fai nei congressi, no, la fai sui giornali con uscite e nei talk show, e oggi l'intervista la raccoglie Francesco Bei, proprio della stampa di Torino. Dice Matteo Renzi, la finanziaria non è sufficiente, serve un piano shock per l'economia. Il leader Italia Viva lo presenterà a Torino venerdì, quindi c'è una sorta di Leopolda torinese, tutti in attesa. Cosa dirà Renzi a Torino? È un momento che ci lascia noi in ansia, ma immagino quanto sarà in ansia la classe operaia italiana. 120 miliardi in 3 anni per rimettere in moto la crescita, questo è quello che racconta la stampa. Allora il Fatto Quotidiano su questo Salvini uomo da mille favole all'interno della maggioranza, gli dà una sorta di santino in prima pagina dove c'è un'aureola intorno al Matteo Fiorentino, con tante bibite di plastica in grembo e una bandierina di Forza Italia, anzi Forza Italia Viva, che è una sorta di sintesi tra la Leopolda e Arcore. E il titolo è San Matteo, patron degli evasori, renziani antimanette e pro contanti. Quindi si fa il populismo di Matteo Renzi viene fuori forte, ma Renzi come Berlusconi, emendamenti contro le manette agli evasori, decreto fiscale, testi dei tre deputati di Italia Viva per sopprimere o mutilare le norme per i furbetti delle tasse. Sono gli stessi che chiedono poi lo scudo all'Ilva, perché dipende chi vada, per chi e per cosa. Dunque, senza confini, dal Del Barba a fianco i Ungaro vogliono azzerare le confische anticriminalità. Questo è quello. Ma sul tema del lavoro, poi, per quadrare il momento storico, interviene il Sole 24 Ore in una pagina interna, ma di quelle che sono in qualche modo non cedono alla propaganda e per quanto dura a volte dicono la verità. E allora abbiamo nuovi occupati post crisi, quando sarà mai e se mai passerà la crisi, 1 milione ma part time, quindi la famosa precarizzazione del lavoro la conferma anche il Sole 24 Ore, è una grande operazione di reddito di potere. Occupazione, sono 4 milioni e mezzi lavoratori a tempo parziale, in gran parte contratti involontari, sono belli contratti involontari a sua insaputa, ma anche per conciliare vita e lavoro, staffette generazionali e crisi. Questo è il Sole 24 Ore. Sull'andamento interviene dall'altra parte, in tutt'altra parrocchia, Contropiano, che è il giornale comunista online, e sulla manovra dice: redistribuire i soldi ci sono, basta andare a prenderli, solo che quelli che ce li hanno non vogliono mollarli. Questo è il quadro. Dunque, la prima arma in mano allo Stato è vista l'elevatissima correlazione tra disoccupazione e povertà, il perseguimento di piena e buona occupazione. L'obiettivo, leggo da Contropiano, del pieno impiego resta il principale canale di riduzione delle diseguaglianze. Uno Stato capace di assicurare un'occupazione a tutti e di assicurare condizioni retributive, lavorative dignitose, favorirebbe da un lato l'accesso al reddito da parte di coloro che lavorano non ce l'hanno e dall'altro ripristinerebbe un certo equilibrio dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, motivo per cui Sole 24 Ore non vuole per nulla. Tuttavia, si sa, far sì che tutti siano occupati ed occupati dignitosamente potrebbe non essere sufficiente a garantire un adeguato livello di uguaglianza in virtù dell'enorme concentrazione della ricchezza a cui siamo arrivati. Ecco allora che lo Stato potrebbe utilizzare un altro espediente per distribuire la ricchezza, andando a toccare il sistema della fiscalità. Fatta salva l'opportunità teorica di finanziare in deficit i programmi di spesa sociale, lo Stato potrebbe comunque fare politiche redistributive garantendo welfare e servizi alle fasce meno abbienti della popolazione attraverso il prelievo di risorse nei confronti di soggetti più facoltosi. Ma ecco che qua, segnala anche il Contropiano, arriva la proposta della flat tax che va esattamente nella direzione opposta: non far pagare nulla a chi c'ha i soldi, far pagare di più chi ce l'ha di meno. Sì, che i soldi da qualche parte ci siano mi sembra si può dedurre chiaramente anche da questo titolo di apertura dell'Economia della Repubblica. Mediobanca promette ai soci 2,5 miliardi nei prossimi 3 anni, quindi insomma un buon dividendo. La dirigenza di Mediobanca alza l'asticella, ma se invece torniamo a numeri più miseri, leggiamo questa polemica che tocca gli asili. Asili gratis da gennaio. Il pacchetto famiglia sale a 3 miliardi, questa è la Repubblica, mentre arrivano le critiche di parte delle associazioni che denuncia mancano le strutture. A fronte di circa 440.000 nuovi nati, ogni anno ci sono 320.000 posti. Il giornale però, oggi nel suo titolo di apertura, denuncia la balla degli asili. Non sono gratis per tutti e il provvedimento esisteva già. È un vecchio trucco delle leggi di bilancio: si prendono le risorse di una misura che già esiste, si aggiunge qualche milione di euro, si dà un nuovo nome alla vecchia norma e il gioco è fatto. Si lamenta, appunto, denuncia il giornale. La norma c'era già, appunto, il ritocco non aiuterà le famiglie. Andiamo alla plastic tax allora, cambiamo versante. Perché da un lato Repubblica racconta plastic tax con lo sconto per i prodotti più riciclabili, il ministro Gualtieri annuncia le modifiche alla misura criticata soprattutto dagli industriali, cambi in vista anche per le auto aziendali, en passant, aggravio fiscale solo su quelle di nuova immatricolazione, quindi questa sarebbe un'altra novità. E guardiamo anche alle pagine del Carlino. Novità su plastica e auto, Gualtieri ottimista, subito asili nido gratis, anche se il forum delle famiglie non si fida. Sulle microtasse invece ipotesi di modifica e rimodulazione con tutte le fibrillazioni di Italia Viva, come già denunciava Alfredo con le sue manifestazioni. Sabato ci sarà però, ci racconta il manifesto, anche la manifestazione dei sindacati dei pensionati al Circo Massimo. Le pensioni, il grande fantasma della manovra. Le pensioni non sono quasi per niente presenti nel testo della legge di bilancio, ma continuano ad essere al centro del dibattito. Se il misero aumento della rivalutazione totale per gli assegni dai 1.500 a 2.000 euro lordi mensili ha fatto decidere ai sindacati dei pensionati di scendere in piazza sabato mattina al Circo Massimo, quota 100 divide maggioranza e politica. Nel giorno in cui l'INPS comunica di aver toccato il tetto delle 200.000 domande, anche se il governo Lega 5 Stelle se ne aspettava 350.000, la CGIL, una ricerca della CGIL, certifica le disuguaglianze di genere del sistema provvidenziale. Ad esempio, le donne hanno un montante di contributi del 30% inferiore alla media. La pagina delle forze politiche vede Berlusconi, che è appena tornato dalla Assise di Palermo sul processo di Lutri, ha detto: non mi avvalgo della facoltà di rispondere perché è imputato per le stragi di mafia, questo en passant, uomo che ci ha governato per 20 anni. Ma siamo mai pronti a tutto, quindi non facciamo una piega. Leggiamo invece con Marco Cremonesi dal Corriere: Berlusconi show contro i ribelli, l'attacco a chi vuole lasciare, perché lo lasciano tutti, questo è il fatto. C'è chi va verso Toti, c'è chi va verso Forte d'Italia, c'è chi va verso la Lega e c'è qualcuno che pensa anche a Renzi, quindi allora dice che però per il voto in campagna il centrodestra avrebbe, secondo Berlusconi, trovato un accordo per puntare su Caldoro. E la Gelmini, che è una delle quinte colonne di ciò che rimane di Arcore, dice: contro Forza Italia pifferà i magici, il governo ha già fallito, la legislatura non durerà. Gelmini: la manovra, le aziende scappano o licenziano. Sono certo che Mara, il caso Carfagna, non ha intenzione di sostenere questo governo e noi non vogliamo isolarla. Infatti la Carfagna dice che sosterrebbe Renzi se facesse cadere questo governo. Nel frattempo, dopo le minacce, le promesse vengono mantenute da Salvini, 80 giorni in Emilia Romagna, e allora arriverà anche a Bologna. La zona rossa per il comizio di Salvini, dice il Corriere di Bologna. La minaccia dei centri sociali: chi semina odio deve avere paura. Le sardine riempiono invece Piazza Maggiore. Domani saranno schierati 150 agenti in questa zona rossa e mezzi blindati per proteggere il Paladozza. E allora su il Fatto Quotidiano arriva, come altri giornali, su questo fish mob, cioè Bologna, 6.000 sardine per rispondere a Salvini in piazza, mascherati da pesci contro il leghista. Lì una risposta ironica, perché c'è chi pensa che Salvini ha tutto l'interesse a avere qualche scontro, immagine dei suoi comizi, per far la parte della vittima e andare sui giornali in prima pagina, e invece l'ironia, quando lo si manda a spendere, gli brucia un po' di più. Risposta ironica: mentre l'ex ministro arringa il Paladozza, il crescentone sarà pieno di contestatori, appunto mascherati da pesci, perché sono sardine e quindi non abboccano. Sì, fra l'altro dicevi le prime pagine dei giornali oggi, ad esempio quella del Giornale di Sallusti: Salvini se la conquista così, la medaglietta del capitano, quella devozione di Salvini per la Madonna dei Miracoli, una pagina intera dedicata alla medaglia miracolosa donatagli in Umbria che il leader della Lega porta con il Tao Francescano, regalo di alcune monache. E c'è appunto il giornale che, diciamo, funge da avvocato difensore. Salvini è accusato di ostentare i simboli, ma l'effigie è sotto la camicia. Il problema è che lui di camicie, più che le camicie, porta le polo e porta i felponi, e i felponi si vedono tutti. No, dicevi di Berlusconi, volevo citare l'umorismo che da sempre lo contraddistingue, perché Berlusconi ha partecipato al Costanzo Show, è stato ospite della puntata che ha registrato la puntata che andrà in onda stasera, e si è concesso appunto questa ironia che viene riportata dal Corriere della Sera, ma anche sulle pagine del giornale. Berlusconi show in TV: oltre a strillare gli italiani avete mutato malissimo. Vediamo cosa dice a proposito del suo passaggio a Palermo. Ma davvero, dice a Costanzo, sei qui da 4.445 puntate? Non sono riuscito a farlo smettere, io ho anche fatto un attentato con una bomba e non ce l'ho fatta a farlo scappare. E giù risate. Questo è il classico umorismo del Cavaliere, appunto, davvero abbastanza raccapricciante. Robecchi, dalle pagine del Fatto Quotidiano, ci ricorda chi sono i pretendenti al governo. Pur ridicolo, il nazi è nazi, serve da controfigura e utile idiota delle destre. Dice Alessandro Robecchi dal Fatto Quotidiano per l'appunto, giunti finalmente a rastrellamenti di quartiere, almeno dei nomi sui citofoni per vedere chi è straniero e chi no, i nazisti dell'Illinois non sono più tanto dell'Illinois, ma sono qui in mezzo a noi. A dispetto della solita solfa sulle ragazzate, le goliardate ed altre puttanate negazioniste. La storia è nota. Un consigliere comunale di Bologna, Marco Lisei, meloniano dei Fratelli d'Italia, insieme a un deputato della Repubblica, Galeazzo Bignami, meloniano di Fratelli d'Italia, anche lui ma ex Forza Italia, videocamera alla mano, ci sono fatti una passeggiata tra le case popolari di Bologna. Hanno così certificato che sui citofoni molti non si chiamano Rossi o Fabbri, come le nostre radici cristiane ci imporrebbero, ma nomi strampalati con delle O, H e delle K. La cosa ha molto turbato i due, che hanno preso al volo quella china dell'ottovolante che conduce alla cretineria assoluta, invasione prima gli italiani, l'Emilia da liberare, eccetera, eccetera, eccetera. Non tragga in inganno il fatto che i due caratteristi, nell'irristibile inquadratura del self-comizio, sembrano più Totò e Peppino in Piazza del Duomo invece che due camicie brune al lavoro. È la solita questione della storia, come tragedia e poi come farsa. Quanto alla camicia bruna, il Bignami ce l'ha veramente, esistono foto che lo indossano mentre lo ritraggono mentre lo indossa, con tanto di pugnale e fascia al braccio, con la svastica ancora nel Rex Postic prandiale con bandieroni della Repubblica di Salò e del Partito Italiano alle pareti. È roba vecchia, quando era capogruppo di Forza Italia Regione, e lui si difese dicendo: indovinate, goliardia, era il suo addio al celibato, ma che bella festa, forse pioveva, se no andava a cercare anche Anna Franca sui citofoni con gli amici. Naturalmente i due incursori hanno dovuto togliere il video dei loro social, nonostante avessero detto esplicitamente che della privacy se ne fottevano alla grande, un sincero me ne frego con retromarcia però, ma resta l'enormità di un deputato della Repubblica che se ne va in giro a schedare i citofoni. Quindi questo è il pretendente al potere. Allora io non abbocco, e quindi ritorno domani alla Lega di Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini, che apriranno la campagna elettorale per le regionali a Paladozza. Ci sono queste due organizzazioni, due contromanifestazioni, una dei centri sociali comincerà alle 18 in Piazza San Francesco e il Fish Mob, 6.000 sardine contro Salvini, che si terrà alle 20.30 in Piazza Maggiore. Ne abbiamo parlato con gli organizzatori. Soprattutto ci sarà tanta gente in piazza, penso, immagino. È un giovedì pomeriggio, giovedì sera, speriamo che il tempo permetta di essere in quelle strade. In teoria Salvini e i suoi stanno al coperto a Paladozza. Il nostro obiettivo è quello di non rendere agibile completamente quello spazio della città, che è uno spazio fatto di storie, di resistenze, di gioia, di divertimento, di amore, di solidarietà, accoglienza, che non diventi lo spazio dell'odio, dell'inizio di una propaganda pericolosa per Bologna, per l'Emilia Romagna, ma in generale per il paese. Quindi il nostro invito di centri sociali, realtà dell'accoglienza, le ONG che si sono battute in mare negli scorsi anni, è ad essere in Piazza San Francesco alle ore 18 di giovedì, per essere presenti in quelle strade e far sentire che la presenza di questa campagna d'odio non è tollerata in una città come Bologna. Nella presentazione di questa iniziativa su Facebook sottolineate il fatto che il Paladozza è vicino a Porta Lame, che è un simbolo, insomma, della resistenza. Sì, certo, siamo anche stati domenica, insomma, alla cerimonia per invitare le persone presenti ad essere in piazza, e al di là dei riferimenti storici, in generale si stanno attivando tante persone che conoscono la storia di quei luoghi, ma che vivono anche in quelle zone lì, in quelle strade limitrofe al Paladozza. Quindi appunto è una storia passata, sicuramente che non tornerà uguale come prima, ma abbiamo visto un assaggio negli anni precedenti, insomma non siamo disposti a tollerare che qualcosa di quel livello storico indecente che c'è stato negli anni passati, più di 75 anni fa, insomma, ritorni senza che ci sia una risposta reale, insomma. Quindi sicuramente giovedì è una data importantissima per Bologna, per la politica italiana, ma non ci fermiamo lì, insomma, cioè stiamo costruendo un pezzo forse piccolo, però di mondo diverso diverso, non permetteremo che venga insomma spazzato via o comunque sì, la parte completamente avversa a noi si presenti senza che ci sia una risposta decisa, insomma. Quella di Piazza San Francesco sarà una manifestazione statica, cioè sarà un presidio o partirete poi in corteo? No, no, l'intenzione è quella di stare nelle strade, insomma, muoversi in quella zona lì del centro. Alle 20:30 in Piazza Maggiore si terrà invece il flash mob 6.000 sardine contro Salvini. È un'iniziativa che parte dal basso e gioca sui numeri, perché insieme ad altri tre amici ci ricordavamo bene che l'ultima volta che Salvini è venuto a Bologna ha lanciato il dato bufala di 100.000 presenze in Piazza Maggiore. Quindi riprendendo questa enorme bufala e riprendendo il fatto che la retorica della Lega si basa su parla alla pancia del paese, abbiamo rilanciato una sfida numerica, nel senso che Paladozza, dove sarà Salvini con la Borgonzoni, tiene 5.570 posti per questione di sicurezza di spazi, e noi abbiamo deciso di organizzare un evento da almeno 6.000 persone, perché poi sicuramente saremo molti di più. E quindi nel momento in cui dovevamo decidere cosa fare, ci è venuto in mente che il Crescentone, per una questione di misura, è circa 1.500 metri, quasi 2.000 metri quadrati, quindi se mettiamo 4 persone ogni metro quadrato, succede che sul Crescentone, se tutto va bene, domani l'altro saremo matematicamente quelli che sono dentro Paladozza. E ovviamente avremo tutta un'altra retorica, tutta un'altra, abbiamo sviluppato tutto un concetto diversissimo, opposto a tutta la retorica della Lega. Sì, ecco, sul Crescentone ci stanno 6.000 persone pressate come sardine, da qua viene il nome, no? Esatto, questo è stato un po' il pretesto, abbiamo detto che è una cosa simpatica, che parli alla testa delle persone, alla creatività delle persone, non alla pancia, e abbiamo lanciato il concetto di sardine, tutti belli spiazzati, diciamo l'interazione che abbiamo creato con le persone che verranno è creati la tua statua sardina e vieni a stringersi in piazza dando un senso sia di unità sia di un messaggio che appunto parte dal cervello e non parte dalla pancia. Come stanno andando le adesioni fino a questo punto? Benissimo, nel senso che noi il primo giorno abbiamo lanciato l'evento giovedì, pensavamo di fare 1.000 adesioni e ne abbiamo fatte 8.000, e da lì è stato un continuo successo. Basti pensare che senza spendere un euro abbiamo quadruplicato i numeri di Facebook di Salvini, che sicuramente per questo evento ha speso almeno 400-500 euro di sponsorizzazione su Facebook, li abbiamo quadruplicati, e se tutto va bene domani l'altro raddoppieremo i numeri della Lega, che addirittura porta pullman dalla Lombardia per riempire il Paladozza, e noi con ovviamente un cellulare in mano e il volantinaggio raddoppieremo i numeri. Quindi c'è il concreto rischio che non ci stiate tutti sul Crescentone? Ma abbiamo rimisurato il Crescentone, in verità si arriva a 7.800 per metro quadrato, probabilmente se si stringe di più arriviamo anche 10.000, quindi adesso lo scriveremo su Facebook l'invito a venire tutti, anche se siamo più di 6.000 lo spazio si trova, la scenografia verrà bene lo stesso. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E dal Crescentone stipato di sardine alla Bolognina, perché Repubblica oggi ricorda l'anniversario della Bolognina. Occhetto al dibattito 30 anni dopo la svolta, dalla Bolognina oggi resta il male oscuro, a sinistra ci si divide. Doveva essere un nuovo inizio, per questo mi rivolsi ai partigiani, dice, ha detto Occhetto appunto in questo revival. Ricordando che nel partito di allora si parlò del problema dell'Amazzonia 20 anni prima, così come della rinascita del terrorismo, allora fui ridicolizzato, ha detto Occhetto. Mi stupisce che oggi nessuno a sinistra rivendichi questa primogenitura su temi che sono drammaticamente attuali. E Occhetto ha fatto anche notare come la voce dei progressisti sia stata impercettibile di fronte ai primi cedimenti del neoliberismo. C'era anche Prodi che ha ammesso, sì, l'Ulivo viene da lì, credo che in Emilia il centro-sinistra vincerà ancora. Peraltro Repubblica ci ricorda che oggi Bonaccini presenta il suo partito dei sindaci, ma anche il Manifesto ha inviato Daniela Preziosi a Bologna per questo anniversario. Aria di svolta 30 anni dopo, al PD serve una Bolognina. Occhetto torna sul luogo del delitto, con lui Prodi e Fassino completare l'opera dell'89, con un video omaggio di Zingaretti al coraggio dell'ultimo segretario del PD a nome dei Democratici Italiani, che proprio a Bologna discuteranno la loro rifondazione. Però è interessante vedere, a proposito di Zingaretti, di vedere appunto dove Zingaretti, qual è il Pantheon, si direbbe, si sarebbe detto un tempo, di Zingaretti. Allora leggo: Zingaretti dai Dem americani prima di venire a Bologna, Clinton verrà in Italia per darci una mano. Ecco quindi il testimonial. Zingaretti ha incontrato Nancy Pelosi, De Blasio e l'ex presidente. Ricostruire la speranza contro la cultura della paura, con un minimo sapore veltroniano. Naturalmente Zingaretti non pensa ovviamente di incontrare Bernie Sanders, che pure è un democratico negli Stati Uniti d'America. Ma per chiudere la pagina della politica e delle istituzioni, vado al Mattino di Napoli. Lo spacco Italia, il rischio del bis. Naturalmente si parla delle autonomie regionali viste dal sud. Le affinità tra il testo Boccia e la proposta Zaia, via l'autonomia anche senza diritti uguali per tutti. Ormai si è visto che c'è una congiunzione tra la classe padronale e quello del centrodestra, perché si vede anche nelle critiche al governo giallorosa quanto la Confindustria si è schierata. Ma detto questo, allora anche l'autonomia in qualche modo è uno dei temi caldi. Vengo invece dal sud al nord, vado a Genova con Ferruccio Sansa. I controllori del Morandi, il famoso ponte crollato, il cassone ha mollato. Nelle intercettazioni sul ponte crollato ammettono non c'erano ispezioni dal 2013, tanto per risparmiare. La causa del disastro: ci percolava l'acqua, l'hanno corroso, su quello siamo deboli. Una conferma per i pubblico ministeri nella loro inchiesta. Nel frattempo, sempre su autostrade, si va da Avellino per quella cosa che si chiama New Jersey, ma sono poi guard raid. Il dimesso Castellucci comanda ancora, detta la linea ad Aspi sull'inchiesta. Imputato sulla strage di Acqualonga, dava indicazioni ai legali su Jersey sequestrati, perché l'ex, dice il GIP, il giudice inquirente, l'ex amministratore delegato manterrebbe ancora una posizione di supremazia nella società, tanto da prendere decisioni da cui dovrebbe essere estraneo perché è indagato. Questo è della serie me ne frego padronale. Ma procediamo invece guardando fuori dalla finestra. C'è un lembo di sole che speriamo che indichi che la settimana cambi tempo, ma nel frattempo c'è piove, e quando piove governi al plurale, ladri. L'acqua alta in San Marco, allarme rosso a Venezia. La marea sale ancora, al sud torrenti di fango a Matera, un morto in Puglia. Ormai è una sorta di calvario, via crucis del maltempo, che anche qui ci siamo abituati, forse non rispondiamo più con l'attenzione che dovrebbe. Ma Venezia è pur sempre Venezia, e come triste Venezia soltanto un anno dopo, cantava qualcuno, la grande bellezza ferita da maltempo ed incuria. L'immagine è sempre quella: San Marco invasa dall'acqua, fiumi di fango a Matera, Venezia finisce sott'acqua, due casi emblematici di un patto con l'ambiente che si è rotto con la modernità. Ricordiamo che Matera è l'anno della cultura, questo per dire l'attenzione. E allora, quando c'è questi fatti, nei giornali si sprecano le voci in difesa dell'ambiente e del paesaggio. Uno di questi è Filippo D'Averio, dalla Stampa: più risorse per difendere il territorio. Esperto di beni culturali, dimenticata la manutenzione perenne. Per due secoli abbiamo riscaldato in modo aggressivo e le conseguenze si vedono oggi. Ma per chi non è capace nemmeno di bloccare le grandi navi a Venezia, immaginate voi se ha voglia di fare investimenti cospicui nella città. A Venezia si allarga la Basilica di San Marco, si allaga la Basilica di San Marco, fango e detriti tra i sassi di Matera. Dunque il ministro manda gli ispettori in laguna, va lì, vedono che l'acqua è alta, si mettono in stivali, poi torneranno a Roma. Anche qua c'è il direttore del MIBAC, Ente di Sicurezza, Fabio Carapezza e Guttuso, 65 anni, ed è anche il prefetto. Emergenza clima, quindi salveremo le nostre città d'arte. C'è il problema, è complesso. Certo che non è vero che poi non si è speso nulla su Venezia, anzi, sull'acqua alta abbiamo speso centinaia di milioni di euro. Cioè, questo, ed è il MOSE quello che doveva impedire l'acqua alta. Allora vediamo questo Moses che si sembra moltiplicato in modo esponenziale, il Civis di Bologna. Il Moses ancora rinviato e la ruggine se lo mangia, perché per 100 anni erano previsti non interventi, e sono già interventi perché altrimenti non funziona, non ha mai funzionato. La chimera, così la chiama senza fine Pietrobelli, ma chimera non per chi ha guadagnato un sacco di soldi negli appalti. Non è in funzione, il 4 novembre è saltato il collaudo, chissà perché, forse perché è il giorno dei morti. Euro in mare, nel 2005 la spesa stabilita è di 5,5 miliardi di euro. Pensate che è una cifra che ci fa in una buona parte la finanziaria. Oggi siamo molto vicini ai 6. Il problema delle paratoie che sono rugginose. Sì, a proposito di ambiente, il Carlino ci porta sulla E45. Cesena, è crollata la strada rifatta un anno fa. il viadotto sfondato sulla E45 con l'ANAS che rassicura sulla staticità del ponte, che, con i residenti che però tranquilli non sono. Nel frattempo i dipendenti della Colgate Palmolive di Arquata in provincia di Ascoli hanno raccolto 10.000 euro per restaurare un'opera danneggiata dal sisma. Rinasce la tela dell'Annunciazione, il regalo degli operai, operai solidali. Nel frattempo invece, visto che si parlava di Annunciazione, segnaliamo questo, come dire, queste bacchettate che si prende Papa Bergoglio, lo troviamo ancora dal Carlino. Attacco al Papa, ha benedetto una dea pagana, nel mirino la statua di Pachamama adorata dagli indios, quando gli è stata data la scultura Bergoglio ha recitato il Padre Nostro. Ma ci sono poi, c'è il maltempo e ci sono i malatempora, perché leggo dalla Repubblica. Andiamo in Toscana, arsenale neonazista a Siena, 2 arresti e 12 perquisizioni, trovati esplosivi e armi, attacchiamo la moschea. Questo era l'intento. Il capo del gruppo era un impiegato del Monte dei Paschi di Siena. E allora di fianco tutti i posti in rete contro Segre. Così funziona la fabbrica dell'odio. E c'è il direttore del centro di documentazione ebraica, Luzzatto Voghera, che dice: in Italia l'antisemitismo cresce, le minacce sono visibili. Anche a proposito di sentenze, invece, dal Manifesto: Cucchi, domani le sentenze, ma per il depistaggio, per lo stralcio del processo sul depistaggio, cambia il giudice, perché il giudice competente, Bona Galvagno, ammette di non essere idoneo in quanto carabiniere in congedo, e quindi, come dire, insomma, vicino all'arma. Si conclude intanto il processo ai medici e quello ai carabinieri responsabili del pestaggio. Come quanto ai diritti, leggo dal giornale che è inviperito questa sentenza della Corte di Giustizia Europea. Vediamo cosa dice l'UE. Per Bruxelles va tutelato anche il richiedente asilo che infrange le norme dei centri di accoglienza. Per il giornale è troppo. In realtà i giudici hanno detto che uno straniero non si può sanzionare togliendogli alloggio, vitto e vestiario, che insomma sembra veramente il minimo. Invece il titolo, ospitare pure i migranti violenti, insomma, ci dice quanta distanza intercorre tra la realtà della sentenza e la percezione del giornale, il quale oggi però ha un bersaglio ben preciso nel mirino, ed è padre, il missionario padre Alex Zanotelli. Cosa ha detto? Prima vediamo cosa ha detto e poi vediamo come il giornale lo interpreta. I militari vittime, si parla dei martiri nella Siria, i militari vittime dell'attentato a Nassiriya, ha detto Zanotelli, non andrebbero definiti martiri, in quanto noi eravamo lì per difendere con le armi il nostro petrolio. Guardiamoci in faccia e diciamoci queste cose, anche se purtroppo in Italia sembra impossibile dirlo e costa una valanga di insulti, ma questa è la cruda verità. Cosa ci stanno a fare ancora oggi soldati italiani in Iraq, come del resto anche in Afghanistan? E qui si apre, apriti cielo, altro che pioggia e acqua alta. Il giornale, appunto, il titolo, se questo è un prete, e poi via dicendo, con uno stillicidio reazioni che appunto inviperite per appunto questo giudizio dato dal missionario pacifista. E allora, visto che siamo entrati, ahimè, nel terreno della guerra, vengo alla Stampa. La crisi in Medio Oriente: Israele uccide il capo della Jihad palestinese. È un classico fatto di terrorismo tipico, questo. Ma siccome lo fa Israele, dice Netanyahu, sta per fare degli attentati, quindi noi siamo, è una polizia preventiva. Tra l'altro, en passant, oltre a uccidere lui, non ci sono anche qualcuno che gli stava intorno, così per fare tombola. Gli islamisti rispondono con 200 razzi da Gaza sullo Stato ebraico, il rischio di un'escalation è più alto dal 2014. Ancora una volta, i giornali, ma non solo la Stampa, ricordano la risposta di 200 razzi nei territori occupati israeliani, ma non si ricorda che i raid aeroplani cosiddetti mirati, che hanno fatto dei morti in Palestina, mentre ed è comunque grave, dei feriti in Israele. Ma insomma, è più grave i morti che i feriti, ma essendo Israele sono più gravi i feriti che i morti. Gaza, Medio Oriente, razzi e raid aerei, ucciso un capo jihadista, Baba Abu Alta, era considerato l'artefice di attacchi contro gli israeliani, altrimenti considerato da parte israeliana. Paure e sirene, per la prima volta dopo il 2014 sono rimaste chiuse le scuole e aziende di Tel Aviv, mentre nel territorio a Gaza la vita era felice, allegra, perché anche qui sono diverse paure. La paura israeliana è molto più grave che la paura palestinese. Questo è come sempre lo strabismo dei nostri giornali. E infatti segnala 200 missili della striscia in risposta all'azione delle forze di difesa. È bello perché in risposta all'azione delle forze di difesa, non mi sembra molto difesa uno che va in uno stato altrui a uccidere qualcuno. Comunque, missile contro un boss di Gaza. Questo è il Corriere. Raid Israele uccide il capo della Jihad, 7 morti, razzi sul tetto ebraico, rischio escalation. E devo dire, con il microfono che mi era saltato, che questa mattina la città israeliana di Netivot, Negev, viene attaccata con razzi lanciati da Gaza. Non si hanno notizie di vittime. E poi le sirene d'allarme sono risuonate nella zona di Latrun e Sbelmesh, a circa 20 km da ovest di Gerusalemme. I media israeliani attribuiscono gli attacchi alla Jihad islamica, ma in realtà tutti i capi della resistenza palestinese sono trovati ieri. L'aviazione israeliana ha effettuato raid aerei su Gaza e un palestinese è rimasto ucciso a Erez Baalah. All'origine della violenza l'uccisione è avvenuta di questo comandante dell'organizzazione della Jihad. Sì, anche altri giornali appunto ricordano queste ore di guerra a Gaza. Nel frattempo c'è una come dire, una battuta d'arresto, una sconfitta giudiziaria per Israele, ci ricorda il manifesto, ma palestinesi soddisfatti e rabbia in Israele dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che i prodotti che provengono dagli insediamenti coloniali israeliani nei territori palestinesi occupati dovranno indicare sulle etichette il luogo preciso di provenienza, cioè dovranno riportare che non sono made in Israel, cioè non sono di provenienza israeliana come è stato finora scritto fino oggi, bensì provengono dalla Cisgiordania sotto occupazione militare. Per Tel Aviv la decisione europea ha come unico scopo quello di prendere di mira Israele, ma sta di fatto appunto che è sicuramente una sentenza importante, anche se in punta di diritto. A proposito di guerre del presente e del passato, oggi il Carlino apre in primo piano con il ricordo delle stragi naziste. Germania condannata a pagare per l'eccidio di Roccaraso, beni tedeschi ipotecati, per la prima volta un giudice blocca dei terreni per 1,7 milioni, è la prima volta, il Carlino ci ricorda appunto quanto accadde nel eccidio dell'Aquilano del 43, donne e bambini massacrati con corpi sotto la neve per mesi, mentre, scrive Andrea Fontana, Berlino continua a negare i risarcimenti, Italia e Germania da decenni si confrontano in tribunale, per i tedeschi le stragi sono atti di guerra e non crimini contro l'umanità. Anche qui in punta di diritto, ma il distinguo non è da poco. Vengo alla Bolivia. Verrei alla Bolivia perché ci fosse qualche articolo sui miei giornali. Invece la Bolivia, c'è un golpe fascista ordito da Trump, in qualche modo viene più o meno sottostimato, sotto traccia, oppure come fa il Fatto Quotidiano, che questa è la notizia: Messico, Morales è nella lunga lista dei rifugiati. Siccome Morales ha avuto asilo in Messico, cosa fa il Fatto Quotidiano? Ci racconta perché, per come, cosa succede in Bolivia, che c'è la vicepresidente che è della destra, che probabilmente andrà ad interim all'infinito con i militari e le elezioni che ci fanno o non si fanno, con ancora scontri nella zona andina. No, ci racconta tutti i precedenti degli asili in Messico, a partire da Leone Trotsky. Questo è l'aspetto di folklore, tutto così, tanto sono indio, chi se ne frega, vero? Questo è il concetto. Non so se Piero ha qualcosa sulla Bolivia, dal manifesto forse. Sì, ma dal manifesto anche dalla Repubblica. Una pagina della Repubblica, appunto con Daniele Mastrogiacomo, racconti tre volti per la Bolivia nel caos, il rivale, il ribelle e la vice, sembra un feuilleton. Alla Paz vuoto di potere con Jeanine Agnez pronta ad assumere la presidenza, mentre appunto fuga difficile per l'ex presidente, e Federico Rampini commenta quel confine incerto tra golpe e insurrezione. Rampini fa fatica, si arrampica per insomma trovare un distinguo veramente complicato. Dal manifesto, Morales ripara in Messico, Bolivia a rischio massacro, anche perché giustamente il manifesto ci ricorda che i militari si sono schierati con i golpisti e che la protesta è stata definita appunto ora è un'orda delinquenziale. quale scatta la repressione con il leader ribelle Luis Fernando Camacho, detto Macho Camacho, che riporta la Bibbia nel palazzo presidenziale, con Camacho che ha in comune con Bolsonaro, col brasiliano Bolsonaro, la fulminante ascesa politica. Anche chi ha rotto con Morales per alcune sue posizioni ora teme la destra razzista al potere, di fronte al rischio non trascurabile di una guerra civile. William Kelly Mann dà su Contropiano, giornale comunista online, 5 lezioni della Bolivia. La prima: non importa quanto l'economia sia gestita in modo esemplare come ha fatto il governo Evo, con crescita, ridistribuzione, investimenti tutti graditi, tutti gli indicatori macro e macroeconomici migliorati, la destra e l'imperialismo non accetteranno mai un governo che non fa servire i loro interessi. Secondo: i manuali pubblicati dalle varie agenzie di America e i loro portavoci travestiti da accademici e giornalisti devono essere studiati in modo da poter riconoscere i segni di un'offensiva per tempo. Terzo: una volta cominciato tutto ciò, arrivano i leader delle politiche di destra e le elite economiche, i quali chiedono un cambiamento e la fine della famosa dittatura di Evo, che, come ha scritto l'impresentabile Vargas Llosa qualche giorno fa, è un demagogo che vuole, per rendere eterno, il suo mandato al potere. Quarto: le forze di sicurezza ora entrano in scena. In questo caso stiamo parlando di istituzioni controllate da numerose agenzie militari, civili e del governo degli Stati Uniti. Quinto: la sicurezza e l'ordine pubblico della Bolivia non avrebbero mai dovuto essere affidate a istituzioni come la polizia e l'esercito, colonizzate dall'imperialismo e dai suoi lacchè all'interno della destra della nazione. Insomma, un classico percorso da Pinochet. Anche Allende, legittimamente eletto in Cile, ha avuto i suoi problemi di piazza, la rivolta dei camionisti e quant'altro, la mancanza di beni nei negozi, ma poi, visto che vinceva l'elezione, come faceva Morales, gli hanno fatto il golpe, esattamente come in Bolivia. Putin parla di golpe, Trump di liberazione, ovviamente. E allora leggo dal caso dai curdi e missili russi in Turchia, in salita al vertice Trump-Erdogan dalla Stampa. Oggi l'incontro a Washington, se il leader di Ankara rinuncerà agli S-400, riceverà gli F-35 nordamericani. Insomma, Erdogan, il sultano turco, si sta mettendo all'asta al miglior offerente. Vengo alla Spagna. Spagna rischia tutto rosso-viola, dice il Fatto Quotidiano, che presenta la svolta con due irriducibili nemici, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, che si abbracciano e hanno fatto l'accordo in un governo di minoranza. Forse era meglio si demagnava intanto, se non l'avessero fatto un anno fa, quando erano vincenti invece di essere perdenti. Comunque, è un governo progressista. Dopo 6 mesi il boom di Vox, l'estrema destra, il patto Sánchez-Iglesias in 10 punti, ma la coalizione a meno 6G delle scorse elezioni, per l'appunto. Allora sarà importante anche l'astensione dei catalani. Svolta in Spagna a Sánchez-Iglesias insieme al governo. Intesa tra socialisti e Podemos, ma manca la maggioranza. Nel frattempo, per la Spagna, per Madrid, un brutto colpo che arriva dall'Unione Europea. Indipendentisti eletti hanno diritto all'immunità, quindi il processo di Madrileno è fuori legge. L'avvocatura generale su Puigdemont è Junqueras. Non è ancora sentenza definitiva, ma se i giudici del Tribunale dell'Unione Europea dovessero seguire il parere pubblicato ieri dall'avvocatura generale, cosa che in genere accade, la Spagna e le istituzioni europee incasserebbero una clamorosa sconfitta sulla disputa con gli indipendentisti catalani. Per almeno due di loro, tra cui l'ex presidente della Generalitat, Puigdemont, tra pochi mesi potrebbero essere infatti aprisi le porte dell'Europarlamento. Sì, anche dalla Repubblica. Spagna, quell'abbraccio dopo il voto, intesa Sánchez-Iglesias per il governo, l'esploit di Vox della destra populista spinge all'accordo i leader del Partito Socialista di Podemos. Per formare l'esecutivo servirà anche l'appoggio dei partiti minori. L'ascesa dell'estrema destra ha convinto i due a mettere da parte i veti che per mesi avevano bloccato le trattative. Nel frattempo il re di Spagna e la moglie Felipe VI sono in viaggio a Cuba per i festeggiamenti per i 500 anni della fondazione dell'Havana, uno storico viaggio, un appuntamento organizzato con cura dal governo Sánchez. Anche dal Manifesto c'è l'accordo socialisti Podemos, la maggioranza non ancora, parte la caccia ai voti degli indipendentisti. Sarebbe la prima volta di un governo di coalizione in Spagna con una vicepresidenza per il leader dei Viola, questo governo rosso-viola. C'è un'intervista al politologo spagnolo Pablo Simón Cosano, che è convinto: non ci sarà un terzo voto, questa è la volta buona. Se ce la fanno ad approvare la finanziaria, avranno un orizzonte davanti di almeno 2 anni. Thank you. cantando de esa manera. Vamos, Carmi, vamos ya. Con el ritmo de la rumba. Mis manos me piden palmas. Mi cuerpo me pide juerga. Si tú quieres aprender, ven aquí te enseñaré. Lo que pasa con la rumba. Y no pierdes el compás. Los gitanos de hoy en día, cuando se lían de juerga, se pasan horas enteras cantando de esa manera. Cantando de esa manera. Con el ritmo de la rumba. Mis manos me piden palmas. Mi cuerpo me pide juerga. E i gitani, che sono appunto gitani, pensate, in Spagna, dall'Egitto, dall'India, quindi si chiamano gitani, questo così. Ma dalla Spagna all'Italia, anzi a Bologna, col Carlino, Bion, congelati tutti gli stipendi, stop dell'amministratore giudiziario, anche i pagamenti a banche e fornitori, timori dei dipendenti, beh, più che giustificati, credo. Dalla pagina invece del Corriere della Sera, Merola vuole lo stop ai nuovi Airbnb, mosse per alleviare la carenza di case per gli studenti, apre anche un altro studentato, dice il Corriere di Bologna. Sì, la conferma anche da Repubblica, nuovo studentato in via Belmeloro e provvedimenti drastici sulle licenze di Airbnb in centro storico che potrebbero essere congelate dalla prossima primavera attraverso il decreto UNESCO. Sono le novità annunciate appunto da Merola sull'emergenza casa. Nel frattempo Merola anche ha parlato anche di mobilità, chiedendo a Tiper di aumentare il numero delle corse notturne degli autobus. E poi abbiamo la pagina del lavoro, tutti assolti con formula piena, le 23 persone, tra cui molte lavoratrici, che parteciparono allo sciopero del giugno 2014 all'Interporto davanti al magazzino della cooperativa Mister Job. Gli imputati rinviati a giudizio nel luglio del 2018 erano stati accusati di violenza privata, lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Ci ha messo un po', ma insomma sono stati assolti. Mentre per la pagina politica si guarda a Imola, perché dice racconta Repubblica, il Movimento 5 Stelle espelle Manuela San Giorgi, sindaco dimissionario, il comune di Imola commissariato, e quindi si va verso nuove elezioni. Con questo è tutto, come dire, risentirsi domani sempre stessa ora, ciao.